Sintonizzati sulle 87.9 Radio Onda Rossa per lo streaming, potete ascoltarci sul sito della radio www.ondarossa.info. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici, a tutti coloro che vivono in questo momento privati della loro libertà personale. Un abbraccio agli amici di Via Pestalozzi, loro sanno, e a Steve che sabato a Berlino mi ha fatto ballare fino alle 7 del mattino. Ci vorrà un mese per riprendermi, perché gli ascoltatori di questa radio straordinaria, voi lo sapete bene, la musica ha un potere enorme che niente altro su questa terra ha. Nessuno di noi assapora la libertà se non quando si lascia andare e si abbandona alle evocazioni che la musica è capace di farci vivere, e a cui davvero la personificazione di questo potere sono coloro che la musica la creano: gli sciamani, i musicisti, i compositori, che riescono a far fluttuare l'anima mentre si ascolta, durante un viaggio in cui l'unico confine appare quando le note smettono di farci vibrare. E che emozione oggi, perché qui in studio c'è uno sciamano, uno sciamano in persona. Un maestro, un vero maestro, Enrico Melozzi, poi dopo vi raccontiamo. Buon ascolto. Thank you. E abbiamo ascoltato il tema principale della colonna sonora del film Buoni a Nulla, composto proprio da Enrico Melozzi, che sta qua con noi. Ciao ragazzi, grazie per avermi ospitato in questo spazio bellissimo che già conoscevo, perché sono venuto un paio di puntate, quelle organizzate dal Teatro Valle. Esatto. Ed è stato proprio lì, tra l'altro, che ci siamo conosciuti. Esatto, ci siamo conosciuti in quello spazio meraviglioso dove ho conosciuto tantissimi dei miei collaboratori attuali. Sì, sì, poi ne parliamo. Uno spazio irrinunciabile, purtroppo dobbiamo quasi rinunciarci, viste le condizioni politiche di oggi, però sono convinto che questo è uno spazio che lo possiamo vivere in qualsiasi teatro, basta solo entrare in un teatro con la mentalità del Teatro Valle e qualsiasi teatro si può trasformare in quello che è stato questo grande teatro. Eh sì, Enrico Melozzi, classe 1977, 22 giugno. Passione per la musica e per l'atletica fin da ragazzino, 11 anni, però ha avuto un incidente con la moto. Guidavo la bici. Ah, no, una moto mi ha investito. Ah, una moto ti ha investito? Sì, sì. Perché avevo letto una moto, ho detto, ma sì, come sì, 11 no, anni, fatto Enrico, no, era probabile, perché io poi guidavo ovviamente moto, motorini, tu macchine. Beh, così. Insomma, è andata così, meglio forse, perché da quella costrizione, stare seduto su una sedia a rotelle per 2 anni in letto di ospedale, è stata molto lunga la cosa. Ho iniziato a correre forse più con la fantasia che con le gambe. E ho trovato nella musica il modo per correre più velocemente possibile. Sì, e se mi pare che ci sei riuscito, ti sei diplomato al conservatorio in violoncello con il massimo dei voti nel 1999, sei diventato assistente di Michael Riesler, non so se l'ho pronunciato. Michael Riesler. Infatti l'ho pronunciato male. Hai collaborato con lui, no? Sì. Con importantissimi musicisti, Sabine Meyer, Vinko Globkar, Jean-Pierre Drouet, Michel Portal, Terry Bozzio, Marcus e Simon Schockhausen e Paolo Fresu e altri collaboratori del tuo, diciamo, mentore. Nel 2001 hai incontrato Federico Savina, docente presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove hai anche studiato. Sì. E hai debuttato, pensate un po', cioè uno debutta, no, non debutti, che ne so, in un circoletto di quartiere, lui ha debuttato a Roma. E dove ha debuttato? Al Parco della Musica, all'Auditorium. Sì, all'Auditorium, sì. Parco della Musica, con un'opera su Oliver Twist. Niente così, una cosetta. Sì, tre ore di musica, sì. Fu abbastanza dura, però mi ricordo fu un bellissimo debutto, sì. E poi hai iniziato a comporre colonne sonore per cortometraggi, lungometraggi, spettacoli teatrali, hai collaborato con un sacco di registi, hai fondato il duo di musica elettronica Lisma Project, che sì, magari poi ne parliamo, insieme a Stefano De Angelis. Nel 2007 hai fondato un'etichetta discografica, sì, indipendente, la Cynic Records, che poi, sì, magari ci racconti un po'. Certo. E sempre nel 2007, in occasione dell'apertura di Teramo, del Duomo di Teramo, questo ci tengo a dirla perché mi ha colpito tantissimo, ha composto la sinfonia concertante Il Nuovo Tempio, scritta in soli 11 giorni nel mese di agosto. Si faceva un caldo pazzesco. Mi ricordo il giorno 10 è salito il vicino che non avevo mai visto e mi ha detto: per favore, a me non dispiace la musica, però cambia musica, perché erano tipo 10 giorni che il pezzo lo suonavo interrottamente. Ed perché è bellissimo. Stavo lavorandoci. Io l'ho ascoltato, è qualcosa di lisergico, bellissimo, vi consiglio di farlo anche voi. E nello stesso periodo hai fondato il movimento Nuove Armonie, che si occupa di promuovere la legalità e la meritocrazia nel campo artistico nazionale. Poi magari una cosetta da poco, diciamo, questi tempi. Anche qua. E poi la parte più bella, più poetica, quella che ci, insomma, ci accompagna un po' di più all'interno di questi studi, di questa radio, anche per Federico, che insomma con il Teatro Valle è stato abbastanza affiatato. Insomma, viene invitato a suonare al Teatro Valle, occupato il 6° giorno di occupazione, il 19 giugno 2011. Da quel momento partecipa attivamente all'occupazione, ti dedichi prevalentemente all'ambito musicale, naturalmente, e lanci la vertenza musica, alla quale aderiranno tra gli altri Stefano Bollani, Rita Marco Tulli, Subsonica, Danilo Rea, Giovanni Solli, ma è una lista interminabile. proprio insieme a Solima nel 2012 hai partecipato a un evento senza precedenti, il concerto dei 100 violoncelli, i 100 cellos. Esatto. Sì, abbiamo fondato proprio io e Giovanni in una notte proprio dal Teatro Valle. Lui venne perché io lo feci chiamare dal suo editore Piero Stali di Casa Musicale Sonsogno. Disse: abbiamo bisogno di uno come Giovanni qui, perché dobbiamo crescere sul piano artistico, che stiamo facendo molto, però dobbiamo proprio portare la musica a alti livelli qui. Era il mio sogno. Infatti feci arrivare affittare degli strumenti, il pianoforte, i microfoni, presi dei microfoni dal mio studio, li portai a Blammo il Valle. E allora dissi: Giovanni, dobbiamo fare qualcosa di grosso qui, e iniziamo a discutere, facciamo un duo, un trio, un quartetto, un ottetto, un 20, 25, 30, alla fine sparammo sto numero 100 e lo facemmo veramente, e fu forse uno dei momenti più belli di tutta la storia del Val. Sì, più di 140 violoncellisti provenienti da tutta Europa, che con la prima performance al Teatro Valle occupato di Roma ha sconvolto i fortunati spettatori presenti e ha stupito successivamente 800.000 spettatori di Piazza San Giovanni al primo maggio, così sì. Una cosetta. Anche con un bella ciao eseguito da tutti quei violoncelli. Proseguendo, continuando a suonare. Inno. Nel 2014 alla Triennale di Milano, suonando nelle città ovunque, partendo dalla Stazione Centrale, poi a Torino per i 25 anni della caduta del muro di Berlino, in diretta televisiva nazionale, a Budapest per l'apertura del semestre italiano alla presenza dell'Unione Europea con oltre 10.000 persone. Beh, vabbè, che dire, qua la biografia è lunghissima, mi fermo perché se no rompo i coglioni, invece la musica è da paura. C'è tutta la parte sui miracoli, la moltiplicazione dei pesci, che però alla faccia di quelli che gli spazi li sgomberano, no? Esatto. Ragazzi, diamoci una regolata, gli spazi vanno occupati, tenuti, presidiati e lasciati Bravissima. Liberi a chi la musica, l'arte, il cinema lo fa con passione e che lo vuole condividere, e questa radio condivide tutto l'amore per tutto questo. Grandissimo Enrico, grazie di essere con noi. Grazie a te, buon Ottavia. Ascolto. È un onore. E avete ascoltato ancora altri brani della colonna sonora di Buoni a Nulla, in particolare il primo, sono tre brani da un minuto, il primo Ostacoli quotidiani, il secondo La colazione, il terzo La riunione di condominio. La famigerata temibilissima riunione di condominio, dove appunto Gianni, in questo film bellissimo che abbiamo fatto insieme, cerca di evitare la riunione di condominio che si tiene in cortile, e lui cerca di passare senza farsi vedere, perché ovviamente ha debiti con il condominio, tutto quanto, la scala, il gas, cerca proprio di evitare come la peste questa cosa, ma viene ovviamente sorpreso dalla più anziana del condominio, che poi è interpretata dalla signora Cao, l'avvocato Cao, che è un personaggio del mondo del cinema mitico, e allora lei lo riprende, e c'è anche Gregoretti, che è il marito, che pure riprendono Gianni, dicono lei deve partecipare a questa riunione importantissima, e gli fanno delle varie cazziate sul fumo, sulla sigaretta elettronica. È una scena molto divertente. Ci dicevi che lui è l'autore più importante con cui hai collaborato, e per la prima volta è la sua terza opera. Non in genere hai fatto opere prime, insomma. Certo, sì, è la prima volta che mi è capitato nel cinema di collaborare con un regista che avesse già avuto successo e avesse già fatto già due film, e poi ha deciso di contattarmi per questo nuovo film. Per me è stato molto importante, proprio perché in Italia siamo molto gerontocratici. Morricone il primo film l'ha fatto a 36-37 anni, io ce n'ho 38, quindi bene o male siamo lì, si inizia a quell'età in Italia, e invece è successo che un regista di una certa età mi ha invitato, non per la sua opera prima, ma per la sua opera terza, quindi una sorta di miracolo. Di solito fino a quel momento appunto ho fatto solo opere prime, cortometraggi o lunghi, ma parliamo del 2014, sì. Sì, questo film Buoni a Nulla di Gianni Di Gregorio del 2014, per chi non lo sapesse, è l'autore di altri film molto carini, Pranzo di Ferragosto, il mio preferito, Gianni e le donne, poi del 2014 di Buoni a Nulla, e tre ne ha fatti. Sì, questo è il terzo film, la trilogia, questa è è una sua trilogia sulla terza età. Questa dovrebbe essere, diciamo, l'ultimo capitolo riguardo alla terza età, e sta lavorando da parecchio tempo su diversi soggetti. Bene. E speriamo che doni un'altra delle sue perle. Sì, sì, sì. Poi insomma lui ha fatto un sacco di cose, ha scritto un sacco, è un attore, un regista, uno sceneggiatore. È un personaggio incredibile, come lo vedete nel cinema, nel film, nel grande schermo, nel piccolo schermo, così lo troverete nella realtà. È una persona che fa dell'umiltà, della semplicità la sua chiave di volta, il suo punto di forza è proprio la sua semplicità espressiva e la sua umiltà. È una persona che ne sa una più del diavolo, ma quando lo incontri ti sembra sempre di interloquire con un bambino, con la tabula rasa del bambino, che è poi la sua forza drammaturgica, la sua forza poetica, e si sviluppa proprio su questa chiave. È anche un caro amico, tra l'altro. Ah, beh, lo salutiamo, ciao Gianni. Mi ha fatto un provino, la prima volta che ci siamo conosciuti mi ha fatto un provino di 8 ore. È durato 8 ore, che giuro. Che detti? Ma non lo so, suonato, cioè, io suonavo, li facevo sentire musica, poi abbiamo iniziato a bere il vino, mangiavamo tarallucci, abbiamo mangiato tipo 500 tarallucci, cioè, è durato 8 ore, sono uscito, ho telefonato a mia madre, ho detto mamma è finito adesso, ma come, sono le 8 di sera, sì mamma è così, è venuta a mezzogiorno, è stato molto divertente però, sì. Senti, la musica l'hai composta te, e chi l'hai eseguita? Allora, l'hanno eseguita, è stata eseguita da un ensemble che ho costituito apposta per questa colonna sonora, che poi spesso ci sono nomi che ricorrono spesso nelle mie colonne sonore, come appunto la fisarmonica di Danilo Di Paolo Nicola, organettista e fisarmonicista abruzzese, che è amico mio fin dalla mia tenera età. Tra l'altro c'è una storia particolare che ci lega, perché quando ebbi quel famigerato incidente di cui abbiamo già parlato, la prima macchina che si fermò a soccorrermi e che mi portò all'ospedale, dentro questa macchina c'era proprio Danilo, che noi non ci conoscevamo, era bambino, tornava da un concerto, perché è un bambino prodigio, già suonava a quell'età, era già famoso, e suo padre fece scendere questo bambino e la madre con l'organetto, e al posto loro salì io dietro, sdraiato dietro, poi la macchina ovviamente non vi dico in che condizioni era dopo questo trasporto, versi tantissimo sangue purtroppo, e quindi poi tutti i Natali, le feste così, andavamo, mio padre comprava, ne so, la pista delle macchinine, tutti questi giocattoli bellissimi che li portavamo, Poi ci siamo ritrovati 10 anni dopo in conservatorio, e poi dopo ancora abbiamo iniziato a collaborare, proprio perché quel suono di Danilo, quando io penso alla fisarmonica penso a Danilo direttamente, cioè non scrivo nemmeno fisarmonica sul rigo, scrivo Danilo e poi lo sa lui quello che deve suonare. Quindi tra l'altro sta uscendo il disco fra poco, spero che uscirà il disco che gli ho prodotto io con grandissimi musicisti. Il nome? Il titolo del disco? Per il momento il titolo, ecco, lo stiamo discutendo in questi giorni, però è un disco che io avevo proposto Transgender, che è un termine che va molto di moda per le questioni sessuali e politiche, però in questo caso è proprio perché la fisarmonica e l'organetto passano attraverso tantissimi generi, passano proprio dal fusion al folk al manouche al jazz balcanico, insomma è un viaggio attraverso i generi musicali. Quindi io lo volevo chiamare Transgender, lui forse non so se sia d'accordo però perché dice trans, ma proprio trans mi vuoi chiamare a me, ma no, invece io ho detto scusa, no, invece no, dobbiamo rilanciare anche politicamente questo termine, perché poi la trasversalità certe volte non va bene, ma la transessualità sì, assolutamente no, ma nella musica la trasversalità punto. Musicale quando sì, si tratta di trasversalità politica, politica mi dà un esatto fastidio. Però la trasversalità artistica è la chiave piace. Di volta, per esempio pensiamo a Stravinsky o Picasso, questi grandi artisti che non hanno fatto un solo genere la loro poetica, ma passavano da uno stile all'altro proprio mentre la massa pensava che quei generi fossero globalizzati e cominciavano a prenderli, farli loro. Lui boom, cambiava, girava mentre gli altri si schiantavano contro il muro, lui girava all'ultimo secondo e cambiava genere. Schiantiamoci contro il prossimo pezzo, dai. Thank you. E questo brano che abbiamo ascoltato è la colonna sonora del documentario Colpa Nostra, i terremoti d'Abruzzo, è composta da Enrico Melozzi e anche interamente eseguita, ci dice. Sì, sì, perché nei tempi della crisi, soprattutto culturale, reperire i soldi per avere un'orchestra a disposizione completa, un'orchestra completa, è praticamente diventata impossibile, per cui io mi sono attrezzato trasformando il mio violoncello in un violoncello a 6 corde, con una corda in più sopra acuta e una corda più bassa, così potevo sovraincidermi e fare i contrabbassi, i violoncelli, le viole e i violini. Quindi ho sovrainciso 40-50, mi pare 48 violoncelli da solo, un pomeriggio infinito. Alla fine apparentemente ho avuto questo pezzo in testa, penso per 3 mesi. Ho dovuto comporre un antidoto apposta, per un brano antidoto per dimenticarlo. Mi sono arrivati tipo, non so, 46 messaggi, non riesco a leggerli tutti perché sto ascoltando te, sto leggendo le cose che devo, che vorrei chiederti, e non posso leggerli tutti, però me ne sono arrivati tipo 40, li ho intravisti. Ma questo è un genio, oh, ma uno mi ha scritto Scarface, non so perché. Grande, sì sì, assolutamente. E poi altri sonora. Messaggi è molto, per quello Scarface c'è un motivo, perché Moroder, Giorgio Moroder, che ha scritto la colonna sonora di Scarface, certo. E tra l'altro un nome veneziano, in quella, tra l'altro un liutaio di quando ero piccolino era veneto e si chiamava Moroder, quindi questo nome già mi suonava da piccolo. Per quella colonna sonora di Scarface ha preso delle sonorità venete, ossia vivaldiane, quasi parafrasandolo con l'elettronica. In questo caso io anche mi sono ispirato a Vivaldi, alcuni brani delle 4 stagioni, in particolare quelli più notturni, con il pianoforte e i violoncelli sovraincisi ho cercato di dare il cuore a questo film meraviglioso di Walter Nanni, scritto con Giuseppe Caporale di Repubblica, un giornalista di Repubblica, e Walter Nanni, questo regista con cui ho collaborato da quando sono piccolino. Fotografia e montaggio. Un grande talento del cinema, della regia, anche un grande attore comico, scrittore di testi comici, ma sempre politici, molto molto interessanti. Questo è un film importantissimo per tutta l'Italia, ma soprattutto per l'Abruzzo, perché in Abruzzo c'è stato il famoso terremoto dell'Aquila nel 2009, ma il vero terremoto è stato il terremoto politico, quello della sanità, delle tangenti, della mafia. Stiamo parlando del documentario del 2012, Colpa Nostra, i terremoti d'Abruzzo. Esatto. Questo era il tema portante. Il tema portante che ricorre in tutto il film, è un film in cui io ho dato tantissimo, proprio per quanto riguarda proprio il mio impegno di lotta civile e culturale, che cerco di fare senza risparmiarmi in Abruzzo, perché è una terra che è ancora ferma al feudalesimo. Siamo amministrati da... Soffre un po' la chiusura l'Abruzzo. La chiusura, questo traforo del Gran Sasso non ci ha aperto, perché molti, ecco, io sono riuscito a venire a Roma, tanti sono qui a Roma, però prima ci volevano 7-8 ore per venire a Roma, invece adesso 1 ora e mezza, 2, però non siamo riusciti ancora a sbloccarci sul piano politico, c'è clientelismo, nepotismo, è mafia, è inutile parlare, chiamiamola mafia, cioè la mafia non è quella che uccide, perché in Abruzzo non ci sono omicidi così, però è una mafia che ci uccide giorno dopo giorno, perché in tutti i posti di comando, nei posti principali della cultura, sono tutti affidati a personaggi chiave della politica, sono sempre tutti, diciamo, un livello di corruzione altissima. Solo i giovani, facendo una lotta attiva, possono riuscire a invertire la tendenza. Noi ci stiamo riuscendo piano piano. A Teramo abbiamo creato un movimento che si chiama Teramo 3.0, Abruzzo 3.0. Stiamo cercando di proprio scardinare con il blog Il Fatto Teramano, che è un blog che sta andando molto bene, addirittura è diventato il più letto di tutto l'Abruzzo, scrivendo solo verità. Abbiamo subito ovviamente centinaia di denunce, processi sul pensiero, su reati di opinione che ci hanno fatto tornare indietro all'epoca fascista, ma noi continuiamo a lottare e tutti i giorni a scrivere la verità su questo blog, e giorno dopo giorno aumentano i nostri follower e anche il modo di pensare sta incominciando a cambiare. È inesorabile questo cambiamento, ma ci vuole molta fatica, molto lavoro. In questa lotta siamo con voi. Parlano in questo bellissimo documentario Colpa Nostra, i terremoti d'Abruzzo, regia di Walter Nanni, scenografato, fotografato e montato dallo stesso Walter Nanni, raccontato da Giuseppe Caporale, con le musiche di Enrico Melozzi. È un racconto è un racconto della fisicità di quello che è successo, che documenta quello che è stato il terremoto, i terremoti in Abruzzo, il racconto fisico che ha portato alla morte di 308 persone, 58 studenti universitari, non ce lo dimentichiamo, e quello politico, che poi sembra che è finito là, all'Aquila, ma anche questo terremoto che avrebbe dovuto inglobare tutti questi maiali che ancora hanno il potere di decidere qualcosa, non se l'è portato via il terremoto. E noi auguriamo che un bel terremoto, io lo auguro, non uso un plurale, io auguro che un bel terremoto porti via tutti questi maiali al più presto. Purtroppo via. Quelli sono gli unici che si sono salvati. Quelli si salvano sempre. E ci sta da dire una cosa molto importante, che il terremoto dell'Aquila, infatti, perché è colpa nostra? Che alla fine diciamo, perché è colpa nostra? Perché è la sintesi di questo documentario, è proprio questo, che i luoghi dove sono stati i morti sono luoghi condonati, sono luoghi dove la giunta intera, il 100% dei consiglieri, ha deciso di costruire su quei posti, tipo l'alveo del fiume Aterno. Come ti può venire in mente di fare un piano regolatore in cui tu costruisci sopra l'alveo del fiume Aterno? Se lo fai, sei un mafioso, sei colpevole. Pura speculazione. Pura speculazione. Sono crollati solo quei posti costruiti dalla speculazione. Quindi, non parlare di quello che poi è stato ricostruito. Ma chi l'ha votato questo consiglio comunale? L'abbiamo votato noi. Cioè l'hanno votato gli aquilani tutti, non si sono resi conto basta, che in quel basta, momento. Basta, e allora colpa nostra. Musica. L'amore è bello, tu la vivirai. E abbiamo ancora ascoltato brani da Colpa Nostra, I Terremoti d'Abruzzo, La Casa dello Studente, e poi dopo Inchiesta con questa rumba che accompagna appunto sì. questo. Pensavo che la rumba fosse una musica, certo poi la rumba poi in realtà è cantata, è più complessa, c'è la danza eccetera, queste diciamo sono delle basi percussive di rumba che poi è un po' la musica dei reietti, io la considero così proprio perché è una musica che è stata inventata sulle navi quando venivano trasportati i neri in America, dall'Africa. Passando per la Spagna venivano caricati anche di zingari spagnoli che poi hanno dato la vocalità a questa musica meravigliosa, quindi tutta la parte vocale è diciamo di origine iberica mentre la parte percussiva è africana. Poi arrivati lì questi hanno dovuto incominciare a nascondere i loro dei perché altrimenti venivano repressi e quindi hanno incominciato a dare nomi ai loro Chun, Chango, i vari dei della loro tradizione dell'Africa, e hanno incominciato a dare i nomi San Francesco, Sant'Antonio, in modo tale che non venivano repressi. Quando venivano sorpresi a pregare, gli dicevano che stavano pregando San Francesco, allora tutto ok, va bene. Nel frattempo loro, e così nasce la religione sincretica. E invece per quanto riguarda il brano prima, quello corale, sono sempre il coro, diciamo, sempre One Man Orchestra, perché sovraincidendomi anche lì ho creato questo coro, è tratto da Tutte di Fundanelle si sono seccate, che è una canzone commovente della tradizione folclorica abruzzese. Ho preso solo la parte trumma la rirà, che sarebbe trumma la rirà, una specie di gioco di parole, così come per dire non si sa che. L'amore è bello. E l'ho trasformato armonicamente in una sorta di requiem dedicato proprio a quei ragazzi che con tanta fiducia si sono affidati allo Stato e quindi dormivano nella casa dello studente, cioè quelli più poveri che non si potevano neanche permettere una casa da affittarsi per stare da soli, si rivolgevano alla casa dello studente, e proprio quella casa è stata costruita senza il minimo senso architettonico e civico, e lì ci fu materiali scadenti, non c'era proprio calcestruzzo, e fecero la più grande strage di Stato degli ultimi anni, forse è quella della casa dello studente dell'Aquila. E quindi ho pensato di scrivere questo requiem quasi minimalista proprio per dedicarlo a loro, ma soprattutto alle loro famiglie che ancora piangono la scelta di essersi affidati allo Stato quando invece forse se avessero fatto da soli forse oggi sarebbero ancora vivi, forse laureati e forse già dei professionisti. Eh sì, ma è affidarsi allo Stato, mai, in nessun caso, diffidate dello Stato. Brava. Un grande saluto a Enrico da tutti gli ascoltatori, continuano ad arrivare messaggi. Ciao, gente a tutti impazzita. Voi. Gente Leone, che purtroppo dovrei conoscere prima o poi, mi continua, non ne posso più, adesso lo metto nei numeri dei rifiutati. Angelica, no, mai, assolutamente, Leone, Benedetta, io voglio bene a Leone. Qua io veramente non so, non riesco a fare la lista, sono troppi. Ti stanno amando tutti quanti. Grazie, io ricambio questo amore con tanta passione. Spero la tua di musica conoscermi. È veramente splendida. Dai, ascoltiamocela. E abbiamo ascoltato questa volta invece la colonna sonora della Casa sulle Nuvole, sempre composta da Enrico e eseguita da, hai detto, c'è Danilo. C'è Danilo, poi c'è Ernestico Rodriguez, che è il percussionista di Giovanotti, dell'Ombelico del Mondo, insomma. Vabbè, questa non me la dovevi dire, mi innervosisco. Ben più noto. poi tantissimi altri musicisti, veramente questi ormai sono produzioni quasi di 8-10 anni fa, non ricordo più tutti, però ecco, insomma, sono tanti musicisti con cui collaboro, da Lorenzo Riesler, Alessandro Nosenzo, che è anche un cantautore, lui spesso anche in veste di chitarrista collabora alle mie colonne sonore, insomma, sono veramente tantissimi che poi sono passati sotto le mie grinfie in studio. Però ecco, sono tutti grandissimi musicisti che poi danno l'anima alla musica che scrivo. In questo caso, questo è un pezzo che abbiamo fatto insieme con Claudio Giovannesi, che è il regista del film. Opera prima, questo 2008, caso è la sua opera prima, con Adriano Giannini, sì, tra l'altro, come attore protagonista. Tra l'altro un amico, Claudietto è un amico. Claudio, poi un... E tra l'altro con Claudio e con questi pezzi che stiamo sentendo adesso ho fatto il primo concerto al Teatro Valle. Noi facemmo proprio, fummo invitati a portare un po' di pezzi delle colonne sonore che avevamo fatto insieme, e con Claudio è stato un lavoro molto particolare, continua adesso sempre, in tutti i suoi film c'è sempre qualcosa di mio o della mia etichetta Cynic International Recording. Ogni volta lui ci chiama, anche perché noi abbiamo questo rapporto con i cubani, con la musica sudamericana, produciamo anche gruppi di quella sfera lì, e lui è molto affascinato dalla musica che ascoltano lui è anche un musicista. Questa è una colonna sonora scritta a quattro mani. Lui è un jazzista, no? Esatto. Suona la chitarra. Ma poi soprattutto compone questi temi che poi lui mi affidava, in questi casi, o dei piccoli temi che aveva composto, delle armonie così, e io le realizzavo. Poi alcuni scritti a quattro mani, alcuni scritti solo da me, alcuni scritti solo da lui, altri gliel'ho prodotti semplicemente, come nel secondo film, che è Fratelli d'Italia, che è un film sui nati, sui figli di extracomunitari nati in Italia. Seconde generazioni. Delle seconde generazioni, esatto. Oh, ricordiamo che anche adesso autore... ha fatto Alia gli occhi azzurri. Esatto, che ha vinto il premio speciale della giuria, il premio alla migliore opera prima e seconda al Festival Internazionale del Film di Roma, insomma. E adesso ne sta facendo un altro sui carcerati, Wolf. Quindi proprio per quello che lui mi chiede delle musiche di repertorio particolare, proprio che lui va a cercare la musica che ascoltano queste persone che sono nelle carceri e hanno dei gusti particolarissimi, ascoltano musica assurda, e quindi lui proprio cerca quello. E spesso e volentieri io glielo riesco a dare, proprio perché sono molto curioso e produco di tutto. È grande solidarietà da tutti noi, a tutti sempre coloro che sono dietro le sbarre, che ci stanno ascoltando privati della loro libertà. Continuiamo con la musica, Fede? Davide, e poi passiamo nell'ultima parte di trasmissione al nuovo progetto. C'è un sacco di cose a chiedere, ma come facciamo? e abbiamo ascoltato un altro brano dalla Casa delle Nuvole. Sì, sulle dove, nuvole. Dove c'è questo solo di violoncello all'inizio con l'arco un po' orientaleggiante, poi alla fine questo solo un po' pizzicato sensuale, sensuale. Infatti quello, diciamo, questo solo è nato veramente l'amore tra me e Claudio Giovannese. Ogni volta mi dice: guarda, tu tutto, mi piace tutto, le sinfonie, le cose, ma quel solo là su quel pezzo, che poi è stato improvvisato così, cioè quanto è dura 2 minuti, ci abbiamo messo 2 minuti a farlo, ecco, insomma, il tempo che durava, niente di strano. Enrico, parliamo un po' del nuovo progetto che vedrà la luce a breve al nuovo Cinema Palazzo qui a Roma, e del quale parleremo poi in maniera più diffusamente qui su queste frequenze. Sì, sì, il nuovo progetto si chiama Orchestra Notturna Clandestina. È un'orchestra che nasce da una mia, in realtà è nato tutto da un post su Facebook che ho scritto: sarebbe bello incontrarsi e suonare insieme di notte nei posti liberati, no? Nei posti, Cinema Palazzo per me è un posto molto importante, perché è un posto che era una volta un teatro, poi il male ha provato a farci del male con il casinò, il bingo, eccetera. La cittadinanza attiva se l'è ripreso e l'ha riconvertito in uno spazio culturale e sociale. E quindi, perché no, dopo il trauma della perdita, diciamo, del Valle, e quindi anche di tutto quello che era legato alla musica del Valle, quindi l'orchestra del Valle, eccetera, eccetera, ho pensato che forse era arrivato il momento, anziché emigrare, di ricominciare da zero con un progetto musicale, politico ovviamente, che coinvolgesse tutti i più bravi musicisti che avevo incontrato, che ho incontrato in questa permanenza lunga che a Roma, che non è la mia città perché sono teramano, di Teramo, però ho incontrato delle persone straordinarie. Pochi sono nati a Roma, molti vengono da fuori ma vivono a Roma e sono dei grandissimi talenti della musica classica, e questo è un progetto fatto proprio per avvicinare il popolo alla musica classica, che spesso la vede come una cosa elitaria, e spesso anche i musicisti stessi la vedono come una cosa elitaria. Anche chi lo fa cerca di creare un'elite intellettuale intorno a questa musica, ignorando che questa musica, quando è stata composta, era una musica altamente popolare. La musica classica di solito veniva scritta per la danza, veniva scritta per le opere più importanti di Mozart. Quelle che hanno avuto vera fortuna durante la sua vita erano scritte per il teatro popolare, per esempio il Flauto Magico era scritta per il teatro popolare, quindi dove gente stava in piedi sotto, si mangiava, si giocava a carte, si beveva. È troppo facile fare musica con tutti zitti, fagli un po' stare zitti con la musica. Quello era il discorso. Allora, i grandi geni riuscivano a scrivere musiche che, mentre c'era quello che friggeva la salsiccia, la prostituta che esercitava, il conte che spiava l'altra col binocolo, e c'era tutto un casino di chiacchiericcio, riuscivano addirittura con un pianissimo a far stare zitti 800 persone che in quel momento erano in delirio totale. Non c'era la sedia nella platea, adesso ci sono le poltrone, ci siamo proprio ingrassati, ci siamo impoltroniti. Questa è una rivoluzione che nasce da Wagner, Toscanini in poi. Invece prima il teatro era veramente il luogo del popolo, era un agorà popolare dove, se tu non eri in grado di tenerli zitti, andavi fuori. È troppo facile adesso, tutti zitti, guai che uno prova a far dire una parola, zitto, e no, io ho pagato il biglietto, io comando, tu suona. Certo, ci deve essere anche un rispetto, perché se poi uno fa rumore proprio apposta, disturba gli altri, certo. Però se c'è una comunità intera che chiacchiera durante un concerto, forse è quello che suona che non è capace di tenerli zitti. E le parole di Enrico Melozzi sono musica celestiale, sono armoniche, sono bellissime, proprio come la sua musica. Senti Enrico, quanti elementi per questa orchestra? Allora, siamo circa 20, 17, 18, me compreso, che proverò a dirigere, perché io non sono un direttore, cioè non ho studiato direzione d'orchestra, ma ho sempre diretto l'orchestra nelle mie produzioni, e ho studiato come cavia, cioè ero nell'orchestra che faceva esercitare i direttori d'orchestra. E lì ho imparato un pochettino, perché questi poveracci provavano a dirigere questo. L'orchestra è un po' come il cavallo, no? Il cavallo, quando tu lo monti, se sei sicuro, quello se ne accorge subito, no? Se sei sicuro. Stessa cosa, quando arrivava uno poveraccio che non è subito disarcionato all'istante. E quindi ho imparato così, diciamo, sul campo. Non vengo da studi accademici, però devo dire che riesco spesso a raggiungere l'obiettivo del suono, proprio avendo lavorato molto in studio, cioè l'orecchio allenato, e conosco i trucchi per far arrivare l'orchestra a ottenere certi suoni. Poi è un'orchestra che va sostenuta in tutti i modi, proprio perché sono ragazzi che hanno accettato accettato di collaborare gratuitamente, e poi con gli eventi che faremo, dove dei grandi nomi della musica o del teatro ci stanno appoggiando per attirare più pubblico possibile, ecco, quel ricavato poi viene diviso per tutto il numero in maniera equa, per tutto il numero dei partecipanti, per una specie di rimborso, così, anche per dare una piccola gratificazione, per tenerli coesi. E quindi ecco, c'è Elio Germano che verrà a fare la Ginestra di Leopardi accompagnato dall'orchestra, c'è Don Pasta il 18 marzo, c'è Giovanni Sollima il 15 aprile, poi faremo un concerto il 26 febbraio, questi concerti tutti al Cinema Palazzo. Senti, saranno appuntamenti di venerdì, quindi venerdì. Settimanali? Allora, settimanalmente noi facciamo la prova aperta, tutti i giovedì, a partire da questa sera, è la prima prova aperta che facciamo al Palazzo, quindi la gente può venire e vedere che cavolo si dicono sti musicisti, togliersi delle curiosità, tipo: ma tanto il direttore che ci sta fate non lo guarda nessuno, no? Queste cose, questa domanda, ma quello con l'archetto, che cos'è che c'è nell'archetto, quella che è una sega, no? Oppure come fa Lobo, perché c'ha la faccia così storta quando soffia dentro a quell'affare, tutte queste domande uno se le toglie, le curiosità, venendo alle prove. E la prova serve anche per avvicinarci un po' al pubblico, e allo stesso tempo la mia operazione sarebbe quella di far scendere sti musicisti classici da questo piedistallo che si sono creati, che ci siamo creati, dai, mi ci metto pure io, anche se io sono uno dei pochi che faccio concerto senza papillon, senza cravatta, però per fargli a terra, si dice arcala da sapianta, cioè ma in termine proprio, quando uno vede che uno è troppo sbruffone, arcala un po' da sapianta, cioè scendi un po' dal piedistallo e scendi in mezzo al pubblico e comunica, perché comunque Rossini era uno che a Trastevere si metteva la parrucca insieme a Paganini, travestiti da donne, e andavano a fare cioè facevano finta di essere degli sfigati così, col piattino, e erano Rossini e Paganini, cioè Rossini con la chitarra e Paganini col violino, succedevano delle cose assurde, erano tutte persone cui piaceva vivere, stare in mezzo al popolo, questo sono sicuro, sentire musica, sentire musica, assolutamente, no? Ma poi erano persone cui, se oggi noi avessimo fatto sentire a Rossini o a Mozart come si ascolta, con quale sacralità ascoltiamo la sua musica, secondo me loro non approverebbero. Erano persone molto più spiritose di quello che i libri poi ci hanno trasmesso, a volte anche osceni, e quindi sono stati censurati, addolciti, edulcorati, come lo stesso Leopardi ci è stato trasmesso come un personaggio intellettuale. In realtà quello era un ragazzo che non è mai cresciuto, che voleva, che si ribellava ai genitori e voleva, e quindi Mozart stessa cosa, un rapporto con il padre difficilissimo che lo portava a essere in giro con le prostitute tutta la notte, a morire poi di malattia venerea a soli 35 anni. Quella è la testimonianza più alta di quella che è stata la sua vita. Poi le sue opere non coincidono con il suo modo volgare di vivere, e allora abituiamoci noi a capire che anche dalle persone più, gli ultimi, dai più volgari, può nascere un capolavoro se contestualizzato nel modo giusto. Quindi secondo me c'è molto da dire con questa gente che verrà alle prove, e allo stesso tempo lavorare noi per cercare di offrire un prodotto artistico più alto possibile, dimostrando che la musica può essere sostenuta anche senza questi famosi finanziamenti dello Stato. Io vedo le orchestre che piangono: ah, come facciamo adesso a lavorare, ci avete tagliato i soldi. Ma se tu stai lì da 20 anni e campi solo grazie ai contributi pubblici, non puoi stare nel mercato, vuol dire che non stai nel mercato, vuol dire che campi appresso alla mamma. Se muore la mamma, che fai? Muori pure tu, e allora vuol dire che non sei un bravo uomo, perché non sei riuscito a costruirti un'indipendenza. Quindi noi invece vogliamo dimostrare con questa orchestra che nell'indipendenza più totale si può, facendo uno sforzo ovviamente, riuscire a lavorare bene e proporre alla gente a prezzi bassi, cioè 3, 5, 6 euro a offerta. Io ho visto, adesso noi festeggeremo il 26 febbraio il bicentenario del Barbiere di Siviglia, che ha debuttato a Roma nel 1816, il 20 gennaio, al Teatro Argentina. Prezzi, andate a vedere su Ticket One, io mi rendo conto che un'opera alle Stilla è costosissima, ma 115 euro per vedere il Barbiere di Siviglia, che è un bene comune per quanto mi riguarda, pagare 115 euro vuol dire che in quel momento stiamo mettendo un muro tra la cultura e il popolo, abbiamo creato un'elite di benestanti che possono permettersi l'opera, invece no, che il Barbiere di Siviglia è bene comune, è un bene comune, deve essere gratis, sì, bisogna trovare certo un modo anche per, magari abbassando i costi di produzione, limitandoli al minimo, farlo per i bambini, ma farlo girare, perché è un capolavoro. La cultura deve essere di tutti. Non può costare 115 euro due ore di e musica. E i brividi, io ho i brividi, non so se anche gli ascoltatori hanno i brividi come me, ma insomma avere una persona, un essere... lo sciamano, lo sciamano, ascoltiamolo. Noi abbiamo lo sciamano qua a Radio Onda Rossa, sottoscrivete. Oh, oh, ma come fate senza lo sciamano qua? Che ve lo facciamo ritornare, eh? Lo facciamo ritornare, voi sottoscrivete e lui torna. E questa invece è la colonna sonora dell'Uomo Fiammifero, questo era il tema finale, sempre composto da te, Enrico, eseguito da... Eseguito da un quartetto d'archi strepitoso con Jacopo Di Tonno, Ilaria Cusano, Nico Ciricugno, Luciano Lorusso e poi l'organetto di Danilo Di Paolo Nicola. Il finale è proprio si intitola Il saltarello più veloce del mondo. Il saltarello è la danza abruzzese un po' corrispettivo della pizzica. Noi anche Ciociara. Sì, il saltarello era anche esatto. Diciamo, più si sale a nord, più il tempo è veloce, proprio perché la transumanza partiva dal nord e mano a mano che si scendeva al sud, tutta la fatica, tutta la cosa, il tempo rallentava fino ad arrivare alla pizzica, che è più lenta, addirittura dimezzata rispetto al saltarello. E la cosa impressionante, io ho letto attentamente la biografia di Enrico, è enorme, ha fatto di tutto, ha scritto di tutto, ha lavorato con miliardi di persone, si ricorda tutti i nomi uno per uno, proprio sto sempre sul pezzo. Che figata, che persona meravigliosa, ragazzi. Io sono una persona fortunata e anche voi che siete stati all'ascolto di questa radio. Stiamo chiudendo, sono le 16, siamo ai saluti. Arrivano le sapienti mani prima di Attica Blues e poi di Shibop, La Eschina del Sol. Che vi devo dire, qua torneremo con Enrico perché io non posso più fare a meno di lui. Io non nemmeno, so voi, ma insomma, comunque questa radio ha bisogno di voi. Ha bisogno di voi, e voi credo che abbiate bisogno di questa radio, perché insomma, se non ci fosse stata questa radio non avreste potuto sentire le meravigliose musiche e le preziose parole che ci ha regalato oggi Enrico in questo piccolo spazio. Quindi sottoscrivete con il conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 5600185, Roma. Potete farlo anche cliccando sul sito della radio www.ondarossa.info, clicca su sostieni, esatto. Facilissimo, carta di credito, tutta quella roba là. Fatelo, la radio ha bisogno di essere sostenuta, la radio è in difficoltà, è molto in difficoltà. Questa radio è una radio libera, senza padroni, senza pubblicità, libera dal 1977. Forse è proprio per questo che è in difficoltà. Sì. E allora sosteniamola ancora di più, diamo quello che possiamo, doniamo, partecipiamo, telefoniamo. Io dico sempre, non è importante quello che puoi dare, ma quel quanto puoi dare, ma che tu dia comunque qualcosa, certo. Noi ci siamo, siate con noi anche voi. Ma lo sai, Ottavia, che faremo una serata con l'orchestra per la radio. Io non vedo l'ora. Assolutamente. Faremo una serata per sostenere l'orchestra che la radio. E ci sosterremo a vicenda. Esattamente. Spero. E questa è la radio giusta per mandare i nostri messaggi. È l'unico modo per sopravvivere, sostenendosi a vicenda, unendosi contro tutto ciò che vuole dividerci. Sempre uniti, sempre in lotta, hasta sempre. Viva la musica. A giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Vai. Un'ultima cosa. Un messaggio. Intanto ricordiamo, Enrico, l'appuntamento da oggi, le prove aperte. Da oggi le prove aperte tutti i giovedì dalle 21 a mezzanotte. Perfetto. Notturni e clandestini. E ovviamente. Il primo appuntamento invece. Il primo appuntamento, diciamo, di concerto, è il 26 febbraio con Rossini e musiche tratte dal Macello di Giobbe di Fausto Paravidino, che è la musica che appunto io curo, un progetto che ho curato con 15 compositori, una composizione collettiva rivoluzionaria. Ha debuttato a Parigi. A Genova poi. Poi a Genova, a Parigi, alla Commune, quindi tutto, durante tutto l'arco proporremo sempre queste musiche di questo spettacolo di Paravidino, che è veramente una sintesi della crisi economica moderna e della crisi dei valori. E poi Giovanni Sollima il 15 aprile, il 18 marzo Don Pasta e agli Ogeri. Ne riparleremo. Vi ricordo, Scarceranda qua alla radio, via dei Vosci 56, le bellissime magliette di Renonda Rossa, stupende, con una grafica meravigliosa, niente legami, ma l'affetto, questione di sigarette fino alle 7 e poi nulla più. Un bacio a chi capirà e anche a chi non capirà. Un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Andorossa. Hasta sempre. Voglio bene.